a Roma la vita costa diversamente da quanto costa a Camposano, in provincia di Napoli, dove abito. Ricapitoliamo, abbiamo capito che lo stipendio dei deputati è composto da tre tranche: l'indennità parlamentare, cioè lo stipendio vero e proprio, 4.500 euro al mese, la diaria 4.000 e poi la somma destinata al rapporto eletto-elettore 3.700 euro, una cifra che in sostanza serve per pagare collaboratori e assistenti. Se però l'onorevole non la utilizza, va comunque a finire nelle sue tasche. Insomma, se ti imboschi e non fai nulla, guadagni di più. Per non parlare di chi paga in nero i propri assistenti, e pare che sia un numero anche piuttosto considerevole. Nella Lega invece funziona diversamente, perché l'intera cifra destinata ai collaboratori viene dirottata al partito. Gianluca Buonanno, deputato della Lega Nord alla prima legislatura, nonché sindaco di Varallo. Noi versiamo una cifra abbastanza importante per avere tutta una serie di persone che lavorano per la Lega. Quindi la Lega fa una cosa che secondo me è molto giusta, e cioè quella di dire: finanziamo una struttura con i soldi, diciamo così, che teoricamente servono per i collaboratori. Quindi è una cifra importante quella che è versata al partito, si può dire quant'è? Io preferisco non dirla quant'è. Comunque, ma più o meno sarà quella cifra sui 4.000 euro che gli altri deputati magari utilizzano invece per i propri collaboratori, più o meno ci risultava. Sì, adesso sì, qualcosina meno, ma comunque la cifra più o meno è quella lì. Gianluca Buonanno è anche uno dei pochi deputati che formalmente ha chiesto di rinunciare al vitalizio, ma sullo scandalo della pensione a vita sembrano comunque tutti d'accordo. La pensione andrebbe agganciata al sistema contributivo, e su questo tema è in corso in questi giorni un acceso dibattito alla Camera. Si parla invece meno di toccare altri privilegi. Sentiamo ancora Buonanno. L'aereo non lo paghi, l'autostrada non la paghi, se vai in treno non lo paghi. Anche per viaggi, però, anche per viaggi privati? Non so, io quando viaggio per cose che riguardano la politica. Cioè, no, voglio dire, mai posto questo problema. No, anche per un viaggio di piacere. No, non faccio viaggi di piacere. Ah, poi io non so se i circoli, tennis, tutte quelle cose, io non sono mai andato da nessuna palestre, parte. Piscina, so. Dentista, psicologo, massaggi. Non sono mai andato a queste cose, quindi non lo so. Però ci stanno. Sì, cioè ci stanno, nel senso che si possono rimborsare. Però bisogna stare attenti che magari alcune cose che girano, io lo vedo anche su internet, girano delle cose che sono false, complete. Tutti i deputati hanno l'auto blu. Io ho già avuto un cittadino dalle mie parti che mi ha scritto una lettera dicendo: ah, lei ha l'auto blu. Io ho detto: sì, è vero, ho l'auto blu, è la mia, me la sono comprata 7 anni fa di seconda mano, e ho anche l'autista che sono io. Insomma, alcuni miti sfatati, altri no. Ma sentiamo conferma da un altro deputato, Aurelio Misiti, del gruppo misto, ingegnere e professore universitario. Barbiere si paga? Il barbiere si paga molto di più dentro, e ti mettono in serie, ne pago 20 qua. È un barbiere, uno dei 10 barbieri che stanno là, e non sai chi è che ti tosa la testa, i capelli, eccetera. Ma quindi questa è una... una leggenda metropolitana. Una leggenda metropolitana. Ma allora ce n'è anche un'altra, quella che dice che se un deputato perde un oggetto anche di valore, viene comunque all'interno della Camera, viene rimborsato. Mi è stato detto anche questo, io non ho mai perso niente, nessuno mai si è impadronito del mio cappotto, insomma, poi di quello si tratta. Devo dire che ho sentito dire che c'è l'assicurazione che rimborsa. Solo per i cappotti oppure? Il cappotto, questi, in genere il cappotto ne fregano qua, mi hanno detto, la sciarpa. Senta, ristoranti e buvetti, i prezzi quali sono? Anche quello. Se lei va a mangiare lì al ristorante. Mezza aziendale, che io preferisco queste mezze aziendali che stanno vicino alla Camera, che con 10 euro si mangia qualunque cosa, mentre lì si mangia sempre la stessa cosa. 10 euro comunque è poco, no? Per mangiare primo, secondo, 10 terzo. 10 euro fuori, all'angolo via il Pozzetto, via Poli, con 10 euro lei mangia che è una meraviglia. E dentro la Camera con 10 euro fa schifo, si mangia sempre lo stesso menù. Tutto questo per quanto riguarda i deputati, ma a Montecitorio c'è poi una lunga lista di sprechi che riguarda le voci più disparate, dall'abbigliamento dei commessi alle spese di cancelleria, agli abbonamenti dei giornali. Ma questo è un altro capitolo, di cui però vogliamo darvi un piccolo assaggio che ci ha suggerito l'onorevole Buonanno. Io spengo sempre le luci, sono andato a Montecitorio, sono sempre le luci accese, in saloni dove ci sono le commissioni dove non c'è niente. Tutto il giorno tengono la luce accesa dal mattino alla sera, e ho fatto un conto che solo spegnendo le luci la Camera dei Deputati potrebbe risparmiare oltre 1 milione di euro all'anno. Pure d'estate aria condizionata a manetta, d'inverno riscaldamento a manetta, finestre aperte, tutto acceso. Questo è quello che succede. Dopodiché alla fine della giornata la Camera dei Deputati, negli uffici, le stampanti, i computer, così, ci sono i commessi che sono lì tutto il giorno, che fanno 2 o 3 ore di straordinario per spegnere tutto. Vedo che sono in un mondo a sé. E questo era l'approfondimento di Alessandra Schepisi. Vi ricordo che trovate Italia in Controluce sia su Facebook che su Twitter. Potete scrivere a controluce@radio24.it. Torniamo domani mattina alle 6.30.